Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 12 minuti, chiedo scusa per il ritardo con cui è iniziato oggi Focus Economia, problemi tecnici, ma inizia un'altra puntata appunto per raccontare un'altra giornata economico finanziaria. Per quello che riguarda la notizia del giorno, ahimè non è una notizia positiva e questo sarà il tema principale di questa puntata. Come già vi ha ricordato il GR24 in più di un'edizione, oggi sono usciti i dati sul PIL, sulla crescita o non crescita economica dell'area euro, e ahimè la sorpresa più negativa riguarda proprio l'Italia, se vogliamo assieme alla Francia. Perché? Perché contrariamente alle attese, visto che nell'ultimo trimestre del 2013 il PIL italiano era cresciuto sul trimestre precedente dello 0,1, le attese erano che l'Italia crescesse nei primi tre mesi dell'anno dello 0,2 rispetto a quel trimestre, all'ultimo del 2013. Invece, ripeto, a sorpresa, un calo dello 0,1% trimestre su trimestre e dello 0,5% rispetto a un anno fa. Questo ha delle implicazioni importanti anche sui conti pubblici, perché sappiamo che il deficit che interessa è in rapporto al PIL, ed è chiaro che se quest'anno non andremo avremo un PIL più basso delle attese, il governo stima ancora uno 0,8% di crescita economica, va a aumentare in maniera automatica il deficit inteso come rapporto, cioè cala il denominatore e aumenta il risultato complessivo. Lo dico perché la doccia fredda si è fatta sentire anche e soprattutto sui mercati. La borsa di Milano adesso è nettamente la peggiore di tutte le borse europee, perde il 3,35%, mentre Francoforte, che questa mattina aveva aggiornato anche nuovi record, in questo momento perde l'1%, Parigi l'1,16%, Londra lo 0,60%, l'America perde l'1%. Come sentite, il calo di Milano è doppio, quasi triplo rispetto alla media, anzi triplo rispetto alla media dell'area euro nelle borse. Mediaset è il peggior titolo, perde l'8,54%, ma poi c'è tutta la pattuglia delle banche, meno 6,90%, o dei titoli finanziari, meno 6,90% Mediolanum, meno 6,90% Ubibanca, meno 6% la Popolare di Milano, meno 5,90% Intesa San Paolo, meno 5,60% Buzzi Unicem, meno 5,60% Monte dei Paschi, meno 5% Popolare Emilia Romagna, meno 4,80% il Banco Popolare. Poi, come già ricordavo, calano anche Buzzi Unicem del 5,60%, ST Microelectronics del 4%, Saipem pure del 4%, come Enel, il 3,80% lo perde Azimut, il 3,70% Finmeccanica, il 3,60% Fiat. Mi fermo con chi perde più del 3%, Telecom Italia il 3,66%, Hughes il 3,30%, Pirelli il 3%, come Terna, ma anche A2A ed Exor. Giornatina quella di oggi, e l'affronteremo nei diversi aspetti. Confermo, chi già me lo chiede al 349-238-6666, che avremo anche il ospite di nuovo. Ieri non abbiamo fatto tempo a concludere l'intervista, il direttore della Regione Campania che gestisce i fondi europei, quello che era il responsabile del generale che poi si è dimesso. Va bene, e ne parleremo, ci mancherebbe. Ancora sul fronte però delle reazioni dei mercati, oggi c'è stata anche un'improvvisa impennata dello spread. Ora siamo sempre sotto i 200 punti, però vedere uno spread che prende 30 punti praticamente nell'arco di una giornata, e cioè da un livello di 150 punti va a 184 punti, era molti mesi che non vedevamo una reazione così forte, tant'è che il BTP italiano a 10 anni adesso rende il 3%. Ci sono state anche una raffica di sospensioni in borsa oggi, state sospese poi riammesse Buzzi Unicem, Intesa, Unicredit e Finmeccanica. Devo dire che dei dati del PIL parleremo ampiamente, ma l'altra sorpresa riguarda la Francia in qualche modo, che è ferma, per cui non cresce, e l'Olanda meno 1,4%, negativo anche il Portogallo dello 0,7%, ma qui non si può dire mal comune mezzo gaudio. Ancora è cresciuta invece la Spagna, più 0,4%, il Belgio più 0,4%, dicevo la Germania più 0,8%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Andiamo con le notizie internazionali, restiamo però sulla crescita economica. Il Giappone più 1,5% nei primi tre mesi dell'anno, evidentemente la ricetta, la Hub Economics, sta funzionando, fatta di grandi investimenti, di anche lì di stampaggio di moneta, nel tentativo di tenere lo yen basso. Comunque più 1,5% è il tasso più veloce di crescita degli ultimi 30 mesi per il degli ultimi 10 trimestri, scusatemi, per il Giappone, e del 5,9% rispetto a un anno prima. E tutto questo grazie anche e soprattutto, come ricordavo, a un aumento dei consumi più 2%, che sembrerebbero essere l'effetto, gli aumenti nei consumi, appunto, della politica economica intrapresa dal Premier Abe. No, non sono pessimista, mi scrive un ascoltatore o ascoltatrice, siamo sopravvissuti anche allo spread a 540, no, assolutamente, non confondiamo le cose, però obiettivamente la sorpresa, alcuni mi dicono non c'era sorpresa, beh, insomma, vedendo il dato dell'ultimo trimestre e stando anche alle varie proiezioni si poteva immaginare, non dico una gran crescita, ma sicuramente non un calo, e la sorpresa c'è tutta. Poi sulle componenti arriveremo, su cosa abbia contribuito maggiormente a questo calo del PIL a sorpresa. Ancora andiamo avanti con le notizie, però per quello che riguarda i dati del mercato del lavoro italiano, mentre il ministro Poletti plaude alla conversione in legge del decreto lavoro, ora le imprese potranno assumere senza preoccupazioni, sono soddisfatto, l'obiettivo è più occupazione, più stabilizzazione, d'accordo anche il capogruppo del nuovo centrodestra al Senato, Maurizio Sacconi, che dice sul DL lavoro tutto è bene, quello che finisce bene, da oggi ogni datore di lavoro è più libero, ora sulla base dei contratti fatti o su quelli da fare ad ogni livello gli stessi vincoli rimasti possono risultare attenuati. Una buona notizia arriva dalla cassa integrazione, nel senso che ad aprile è calata del 13% rispetto a un anno prima, è però aumentata rispetto a febbraio del 2%. E un'altra buona notizia, anche qui ve l'hanno già ricordato i nostri GR, ha a che fare con Electrolux. Ieri in serata è arrivato l'accordo su Electrolux, oggi firmato l'accordo dal Premier Matteo Renzi a Palazzo Chigi, presenti il Ministro del Lavoro Poletti, quello dello Sviluppo Federica Guidi, i governatori del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, quindi Zaia, Serracchiani e Maroni, dove ci sono gli stabilimenti di Electrolux, e anche i vertici aziendali e i rappresentanti sindacali. Il ministro Guidi ha ricordato come l'accordo porti a nessun licenziamento né esubero, grazie anche a un diverso approccio, definito più moderno, nelle relazioni industriali. Una dimostrazione di grandissimo senso di responsabilità in una trattativa che ha avuto dei momenti anche molto complicati, quasi drammatici, ma che io, come dire, ho la testimonianza diretta del fatto che è sempre stata condotta col massimo senso di responsabilità da parte di tutti e due gli attori principali per arrivare a una soluzione positiva. Siamo arrivati a un accordo, io credo, veramente molto significativo e importante, perché oltre al risultato finale è un nuovo approccio, io credo, per un modello di relazioni industriali veramente moderno, e siamo arrivati a un accordo che sostanzialmente preserva tutti i posti di lavoro per tutta la durata del piano, quindi nessun licenziamento, nessun esubero. Questo era il prerequisito che noi abbiamo come governo in qualche modo richiesto, e soprattutto abbiamo richiesto ai due attori principali, quindi sindacato e azienda, di dare una dimostrazione concreta del fatto che ci si credesse. Quindi abbiamo chiesto all'azienda un piano serio, credibile di investimenti, che sono arrivati a cubare 150 milioni di euro per innovazione, per ricerca, per nuove produzioni e soprattutto per garantire le produzioni su tutti e quattro gli stabilimenti del gruppo. Allora, parleremo anche di Alitalia più avanti, perché oggi ci sono notizie sulle richieste arrivate da Etihad, le famose lettere, la richiesta finale e soprattutto sul progetto che gli Emirati Arabi, quindi Abu Dhabi, hanno sui 5 anni. Però confermo che il Colosseo aprirà, che i sindacati hanno trovato l'accordo, anche se aprirà per un numero di visitatori limitato. Ma vorrei restare sul tema macroeconomico e i dati diffusi oggi sul PIL. Allora, in America abbiamo visto, lo dico non per edulcorare la pillola ma per essere oggettivi, abbiamo visto in America anche in questo caso un dato sul PIL a sorpresa, ne parlammo 2 settimane fa con Mario Platero, dovuto alle variabili meteorologiche nel caso americano, perché incidono le variabili meteorologiche. Non voglio dire che l'economia italiana, il problema dell'economia italiana sia la variabile meteorologica, se no mi automando il mitico Benigni sul problema di Palermo che era il traffico. Però per essere corretti va detto che c'è stata una componente energetica probabilmente in calo rispetto agli anni scorsi. Comunque ringrazio per averci aggiunto in collegamento l'economista Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino. Buonasera professore. Buonasera a lei. Allora, ripeto, qui bisogna stare attenti a non edulcorare la pillola, perché non è nello stile di questo programma e non sarebbe corretto. Ci sono però degli elementi congiunturali, contingenti. Io citavo il calo, l'elemento meteorologico, perché che accumulerebbe anche Italia con Olanda. L'Olanda, a sorpresa, ha fatto meno 1,4%. Esatto. Ecco, quali sarebbero, mi scusi professore? Ma succede che, essendo stato l'inverno molto mite, la gente ha usato meno il riscaldamento, quindi ha consumato meno metano, meno energia elettrica e cose del genere, e questo comparto della produzione industriale nel primo trimestre ha segnato addirittura un calo dell'8,9 o 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Le raffinerie hanno anche prodotto di meno, però una parte di questa produzione può essere anche stata produzione industriale mancata, cioè clienti industriali, ma anche lì siamo vicini al meno 5. Se togliamo questi due settori, il resto del manifatturiero dà dei segnali positivi abbastanza forti. Quindi non è per edulcorare la pillola, ma per una visione bilanciata. Questo dato negativo, che si somma al trimestre precedente, più 0,1, poi meno 0,1, quindi 6 mesi di stagnazione? No. Sono 6 mesi in cui sotto l'apparente stagnazione il sistema sta cambiando e un settore manifatturiero in parte rinnovato sta prendendo quota, anche se fuori si vede ancora molto poco. Allora, io, avendo avuto ospite molte volte in questi anni, so che lei non è mai un ottimista, per cui sentire dire che in realtà sotto l'apparenza del meno 0,1 c'è un sistema manifatturiero che sta cambiando e avremo risultati più positivi mi fa piacere, perché so che lei non è certo uno che ha un approccio così solo dell'ottimismo, della volontà. Però nei confronti dell'Europa, perché questo tema prima o poi andrà affrontato, non è che possiamo dire attenzione, il deficit sul PIL avrà un risultato più alto, perché questo purtroppo capiterà, nel senso che è un rapporto, non dobbiamo stare sotto il 3%, lo ridico a tutti, che alcuni mi chiedono spiegazioni. Essendo un rapporto, è fatto da un numeratore il deficit e un denominatore il PIL. Ora è ovvio che se il denominatore cala, è un problema matematico proprio di quello che si studia a scuola, aumenta il risultato finale. Allo stesso modo tu potresti avere un deficit che aumenta, ma se aumentasse di più il PIL avresti un risultato migliore come rapporto. Ora, noi cosa andiamo a dire all'Europa quando non staremo dentro o il 3%, comunque abbiamo un dato più alto, che è colpa della meteorologia? Per per fortuna di inverni ce n'è solo uno all'anno, e quindi abbiamo 3 trimestri di tempo per far vedere che quello che stava sotto la superficie viene fuori, se ne siamo capaci, perché poi, appunto, perché non sono un ottimista, ci metto sempre le mani avanti, ma se questa tendenza continua noi avremo una crescita discreta negli altri 3 trimestri, cosa che del resto ci viene accreditata con qualche decimale in più o in meno da tutti i centri di osservazione, insomma, quindi direi che questo va bene. C'è poi un altro elemento, se vogliamo, che questo qui è tutto nostro invece, cui dobbiamo porre rimedio, e non possiamo continuare ad avere una produzione edilizia che rispetto a 4 anni fa, cioè al 2010, ha perso il 40%. Sembra di essere alla fine di una guerra, insomma. Sì, lo dicevamo ieri che i dati con una produzione industriale che è ancora sotto di un quarto del 25%, la disoccupazione a record e appunto lei citava il caso dell'industria dell'edilizia, sono i risultati di una guerra, poi senza morti, giustamente qualcuno mi ha fatto notare che alcuni imprenditori invece si sono suicidati, figuratevi se non lo sappiamo, però diciamo senza i morti e le battaglie di una guerra, ma con i risultati economici di una guerra. Secondo lei, allora, in queste ultime settimane, professor De Agli, abbiamo visto, è andata a uscire delle stime, se non ricordo male, Fondo Monetario, Istat e anche OCSE, molto più prudenti rispetto a quelle del governo, a parte il fatto, ce l'abbiamo ancora Saccomanni? No, che volevamo cercare quella frase di Saccomanni, ancora ministro dell'economia, quando disse la ripresa economica in atto, si parlava a ottobre-novembre del 2013, insomma quella era una frase eccessivamente ottimista, ma dico, professor De Aglio, da questo punto di vista, oggettivamente, cioè, qualche segnale di cautela è arrivato, secondo lei si potrà invertire la rotta e arrivare allo 0,8% entrando nel 2014 con un meno 0,1%? Direi assolutamente sì. Sì, bene. Oggi cioè, abbiamo le possibilità di farlo, se poi vogliamo effettivamente farlo dipende da situazioni politico-sociali che sfuggono al campo di osservazione dell'economista. Ma la potenzialità economica di farla c'è tutta. E quando lei dice invece variabili non di carattere economico ma politico, a cosa si riferisce? Sì, quando io vedo, rimaniamo nel campo dell'edilizia, che tutta una serie di normative prolungano i tempi per svolgere questa attività, mi trovo con una cosa che è contraria a queste previsioni ottimistiche, quindi bisogna che queste vengano attenuate. Questa è la prima cosa che io vedrei bene, non soltanto per l'edilizia, ma in genere per tutta l'attività imprenditoriale, che è molto più costretta di altri paesi. Fino adesso ci abbiamo considerato un fattore secondario, sta diventando rapidamente uno dei fattori più importanti, perché la gente decida, ma anche molti italiani. Cioè molti, lei dice peso della in un altro paese. Lei dice peso e costo della burocrazia. Sì, questo sta diventando un problema centrale. E qui, ma, però scusi, visto che siamo già a maggio, adesso non so come andrà il secondo trimestre, non lo sa nessuno probabilmente a questo punto, però una cosa, una riforma del genere per avere un impatto sul ciclo economico dovrebbe essere attuata, diciamo, prima dell'estate? Il più presto possibile, chiaramente prima dell'estate non ce la facciamo, quindi la previsione va slittata in parte sul 2015. Va anche detto che quando questi pesi fossero alleviati, se andiamo all'esperienza del passato, l'elasticità degli italiani fa fare dei rimbalzi abbastanza forti. Vedo adesso un'agenzia che leggo assieme a lei, in realtà riporta un articolo online del Wall Street Journal che dice sarebbero a pesare sugli spread e sull'andamento poi delle borse, sarebbero oltre che i dati deludenti del PIL di paesi come Francia e Italia, anche le voci di una tassa sui guadagni da capitale realizzata sui titoli di Stato greci da applicare agli investitori non residenti. Questo avrebbe scatenato anche l'impennata degli spread. Non so, io di questo obiettivamente voci che le rendite sui titoli di Stato greci potrebbero essere tassata al 33% per le società e al 20% per le persone fisiche, però ecco che arriva anche la nota, la leggo assieme del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dice non vi sarà nessuna modifica alla tassazione in merito alle voci riferite da alcuni operatori di mercato. Molto probabilmente alla base del movimento di queste ore sullo spread tra BTP e Bund, secondo le quali un paese dell'area euro, appunto la Grecia, valuterebbe l'ipotesi di modificare retroattivamente la tassazione sui propri titoli di Stato, il ministro dell'Economia e delle Finanze italiano segnala che il governo italiano non ha mai ipotizzato alcun intervento di questa natura. Non so, io mi preoccuperei oggi un po' meno dello spread e un po' più del dato congiunturale. Può arrivare anche un aiuto, ma una soluzione a livello europeo. Oggi citavamo, professor De Aglio, i dati del PIL giapponese, ha conosciuto la crescita più forte degli ultimi 40 mesi con una politica molto molto accomodante. Sì, noi non possiamo fare i giapponesi, i giapponesi hanno dei debiti pubblici che sono al 99% in mano ai giapponesi, quindi è un problema interno, i nostri invece sicuramente no, però sicuramente tutti si aspettano adesso, anche dopo questi risultati, ancora di più dopo questi risultati, che la Banca Centrale finalmente faccia qualcosa, probabilmente con questi strumenti un po' nuovi, tassi di interesse negativi, eccetera, eccetera, e faccia qualcosa questa volta con la benedizione dei tedeschi, perché il dato tedesco sembra molto forte, ma in realtà non lo è, se si va a vedere. Loro hanno goduto di qualche vantaggio congiunturale che con la crisi ucraina, eccetera, potrebbe anche venire meno. Quindi per la prima volta ho visto la Bundesbank essere molto possibilista, sì, direi quasi ansiosa che si facesse qualche cosa. Sì, anche se Widman dice non abbiamo cambiato idea, sono cambiati i temi. Vabbè, non me ne frega nulla, se uno è stato fermo, gli altri si sono mossi, o se si è mosso lui e gli altri fermi, il risultato non cambia. Però mi dico un'ultima cosa, professor De Aglio, in realtà gli ascoltatori chiedono, ma anche in Germania l'inverno sarà stato mite? Cioè, io non vorrei dare la colpa alle cavallette, ma insomma anche in Germania le condizioni meteorologiche valgono per tutti gli operatori, per tutti i paesi dell'area euro. Beh, a parte che il clima non è uguale in tutti i paesi, ma credo che la risposta sia che l'industria energetica tedesca pesa meno sul totale produttivo di quanto pesi in un paese più tradizionale come l'Italia. E quindi diciamo nella componente e nel comporre il PIL pesa decisamente di meno. Grazie a Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, per essere stato con noi. Senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa meno 3,60%, il dato finale di Piazza Affari, nettamente la peggiore, come ricordavamo in apertura, di tutte le borse europee. Parigi perde l'1,30%, Francoforte l'1%, Londra lo 0,66%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, archiviamo tutto il dato, oggi una raffica di sospensioni tra l'altro in borsa, Buzzi, Unicem, Intesa, Unicredit e Finmeccanica. Io leggo adesso tutta la lista dei titoli finanziari soprattutto, poi magari ci concentriamo su alcune banche, UBI, soprattutto Intesa che oggi ha pubblicato i dati, e poi anche Generali. Andiamo con ordine. Peggior titolo oggi è Mediaset, meno 8,54%, poi UBI Banca, meno 7,70%, Mediolanum, meno 7%, Popolare di Milano, meno 6,80%, Monte dei Paschi, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 6,20%, Banco Popolare, meno 5,80%, come Buzzi Unicem, poi il 5,60% lo perde Unicredit, il 5,30% la Popolare Emilia Romagna, il 4,50 Saipem, il 4,30 lo perde Mediobanca, ma anche Telecom Italia, il 4,20 Steam Microelectronics, il 4% il calo di Finmeccanica e IUX, il 3,90 quello di Enel, il 3,70 quello di Azimut, ma anche quello di Exor e Fiat, il 3,60 lo perde Tenaris, il 3,20 Pirelli e Snam, A2A, Terna e Moncler, meno 3%. Allora, UbiBanca e Intesa. Sì, come dopo il bollettino di guerra, UBI è andata male, ha fatto la peggior performance tra le banche, meno 7,7%, perché ovviamente risente ancora di quelle che sono le notizie relative alle perquisizioni di ieri effettuate dalla Guardia di Finanza e quindi delle indagini della magistratura di Bergamo che appunto sta indagando sui vertici dell'azienda e sull'ipotesi di truffa aggravata per questo fatto occulto. Ovviamente sono notizie che fanno male e quindi ne vediamo i risultati. Per quanto riguarda Intesa San Paolo, si può dire tra l'altro che ironia della sorte, sia Intesa che UBI hanno fatto dei risultati, UBI l'ha annunciato ieri, buoni, però oggi sono stati travolti ugualmente dalle vendite. Per quanto riguarda appunto Intesa, quest'oggi i vertici dell'azienda hanno comunicato i conti che sono risultati superiori alle attese delle analisti, un utile netto di 503 milioni, il rialzo del 64%, c'è stata anche una conference call, ma evidentemente gli investitori semplicemente vendono l'Italia, vendono le banche. Allora, per quello che riguarda appunto Intesa San Paolo, 503 milioni l'utile per i primi tre mesi, il risultato netto è sopra le attese degli analisti, più 64%. Il peggior titolo però di nuovo Mediaset, ancora i conti e i timori sulla raccolta pubblicitaria? Certo, perché i conti abbiamo visto che nel primo trimestre la società è tornata a perdere contro l'utile a cui era tornata, soprattutto ha dato delle indicazioni poco promettenti sulla raccolta pubblicitaria che oggi sono state avvalorate anche da questo brutto dato sul prodotto interno lordo italiano e che fanno presagire quindi magari tempi duri proprio anche per la pubblicità. È molto pesante anche il calo di Mediolanum, meno 7%. Sì, ieri l'azienda aveva dato i conti di bilancio, l'utile è calato del 41% a 81 milioni e il mercato non ha proprio digerito la cosa, nonostante peraltro le masse in gestione siano salite, nonostante Massimo Doris, l'amministratore delegato di Banca Mediolanum, abbia fornito indicazioni positive dicendo che la raccolta di fine anno dovrebbe superare quella del 2013, pari a 3,3 miliardi. Non sono bastate perché non è piaciuto il fatto che l'utile netto sia calato così tanto, ripeto, del 41%, anche se Massimo Doris ha detto che tutto ciò è da imputare al fatto che sono state assunte persone, 200 persone rispetto all'anno scorso, e in più sono stati effettuati importanti investimenti tecnologici. Ancora, oggi abbiamo visto in calo pure Ferragamo e anche Tod's, cioè non si è salvato praticamente niente. Il titolo migliore è Luxottica, meno 0,44%, Tod's meno 1,80 e Ferragamo, adesso lo recupero, eccolo qua, meno 2,15%. Sì, come Postilla aveva provato a salvarsi i generali dopo i conti che sono risultati migliori delle attese, ma poi ha fatto meno 0,8%. Si tiene un po' in considerazione il settore della moda perché i conti soprattutto di Ferragamo ad esempio due giorni fa sono andati bene, c'è stato comunque un rialzo. Tod's è stato considerato un po' più deludente con i ricavi che sono rimasti stabili, d'altra parte i conti annunciati ieri a borsa chiusa hanno comunque stupito positivamente qualche analista che era addirittura più pessimista. Certo, l'azienda non vediamo più i fasti del passato perché il fatturato anche nel primo trimestre è rimasto stabile, risentendo soprattutto della situazione in Italia dove è molto esposta Tod's. Ok, ancora i migliori e peggiori in assoluto per quello che riguarda i titoli: Sol più 3%, Interpump più 2,70, qui ci sono i conti positivi, Valsoia più 2,32%, Frontoposto, Tiscali perde 16,40%, Ferrovie Nord Milano meno 11%, Mondo TV France meno 9,70%. Grazie, Leonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, ieri avevamo iniziato un'intervista che poi abbiamo dovuto bloccare per motivi di tempo con il direttore del generale Maurizio Scoppa, generale che era stato distaccato, diciamo così, dalla ASL 1, dove aveva ridotto i conti, alla regione Campania per vigilare sui fondi europei in Campania. Il generale ha dato le dimissioni, ricorderete, abbiamo avuto anche ospite con Alessandro Milani nel 24 mattino. E ieri il premier Matteo Renzi, tra l'altro, in visita a Napoli per poi andare a Reggio Calabria e a Palermo, ha detto che le risorse ci sono e chi dice il contrario dice una bugia, e ha insistito sulla necessità di utilizzare meglio i fondi europei. Allora, tra l'altro, ha detto Renzi, ci sono 183 miliardi di fondi europei da spendere perché la classe politica del passato ha pensato solo al consenso immediato e li ha spesi male o non li ha utilizzati. Dario Gargiulo, direttore generale degli affari comunitari internazionali della Regione Campania, di nuovo buonasera. Buonasera a lei. Allora, ieri lei mi stava dicendo, no, noi speriamo ancora di recuperare il generale Maurizio Scoppa, che, ricordo a tutti, se n'è andato lanciando accuse anche gravi, cioè nessuno lo si era filato. Aveva incontrato lei una volta sola per la firma del contratto e poi per caso in aeroporto. Non gli aveva dato una scrivania, un telefono, niente. La possibilità di lavorare era trasparente. Ha detto, ho capito, adesso non voglio far riascoltare le dichiarazioni di ieri, ho capito che non ero, diciamo, desiderato. Ora, è vero, prima che lei me lo ricordi di nuovo, che il totale dell'utilizzo dei fondi comunitari è aumentato negli ultimi 4 anni, è passato da appena il 3,5%, il 4% al 43%, cioè quasi 2 miliardi di euro. Restano ancora in cassa 2 miliardi, abbiamo fatto un calcolo, circa 125 milioni al mese. Però, insomma, questo non è un buon motivo per avere un generale che ha dato un buon risultato alla ASL 1, la più grande ASL del Mezzogiorno, riducendo, dimezzandone i costi, per dire nessuno mi ha voluto, diciamo, sostanzialmente ascoltare o spiegare che cosa devo fare. Prego. Eccomi, quindi riprendiamo un attimino le file del discorso. E in effetti le cifre sono quelle che dicevo, abbiamo ereditato un programma al 3,7, oggi siamo al 43,4. La funzione dell'esperto sicurezza, come dicevo ieri, è unica esperienza tra le regioni italiane, e il nostro programma operativo prevede appunto che questa figura possa diventare in prospettiva una figura trasversale, non solo per i fondi chiaramente strutturali, ma che diventi un ufficio ben strutturato all'interno dell'amministrazione. Però volevo anche segnalare quanto la Regione ha fatto in termini di legalità per la spesa dei fondi strutturali. Noi abbiamo siglato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza proprio per tutto il per contrastare le frodi comunitarie, abbiamo un open data aperto appunto per la trasparenza degli atti amministrativa, abbiamo presso l'autorità di gestione del POR un'unità centrale controlli di primo livello proprio per gli atti amministrativi, l'esperto sicurezza e legalità, come dicevo in precedenza, esperienza unica tra le regioni, e noi lo abbiamo intesa piuttosto come una figura al servizio dei beneficiari, quindi i beneficiari sono le amministrazioni, non per forza di cose sì, solo la Regione Campania, ma le amministrazioni che... No, mi scusi però, direttore, io capisco tutto, però insomma, nel momento in cui un uomo che, diciamo, deve riferire a lei, che è un generale dei carabinieri, che ha avuto dei buoni risultati, si dimette dicendo non mi avete dato neanche il telefonino e la scrivania, ma insomma... Questa cosa qui, non è che possiamo stare altri 10 minuti, che non ho, a dire quanto bravi siete stati in questi anni. Io non lo metto, l'ho ricordato anch'io, che comunque sempre a livello insoddisfacente, ma è aumentato l'utilizzo dei fondi comunitari. No. Io vorrei capire se su questo lei e il governatore Caldoro vi siete sentiti, avete detto, beh, forse abbiamo sbagliato, cioè una missione anche di colpa. Mi dica, prego. Davo, concludendo proprio, vengo a questo domani, è previsto un incontro appunto con il generale Scoppa, perché il generale Scoppa si è continuato a sentire con il governatore Caldoro, quindi avremo molto probabilmente domani delle novità al riguardo. Però volevo appunto significare nel mio intervento che l'esperto sicurezza diventa alla fine, attraverso questa esperienza unica in Regione Campania, il Trade Union di esperienze per la legalità che noi già abbiamo messo in campo dal 2010. Sì, diventerebbe il Trade Union, perché però è dimesso. Ma gli darete un telefono a una scrivania stavolta? Dico, penso proprio di sì. Io speravo appunto con lei di affrontare anche un punto che a noi sta molto chiaro, appunto l'andamento della spesa dei fondi strutturali e quanto noi stiamo cercando di mettere in campo con il governo e con l'Unione Europea per migliorare le nostre performance qualitative e quantitative, quindi speravo oggi di poter con lei affrontare. No, ma io guardi, allora, ne abbiamo già parlato quando andammo a Napoli un mese e mezzo fa con il governatore Caldoro. Esatto, e su questo non abbiamo un partito preso, cioè non è che dice siccome è la campagna non li sa spendere. I dati li abbiamo sotto mano, avete speso un miliardo 970 milioni, 43%. Però quello che faceva impressione è, in una regione insomma in cui non è che sia un mostro di efficienza su tutto, non trovare un telefono, una scrivania, della carta, lasciare uno così alla balia di se stesso che dopo sei mesi dice me ne vado. Su questo si può dire che avete sbagliato? Guardi, no. Gli errori li commettiamo tutti, come autorità di gestione. Noi viviamo in una continua evoluzione anche logistica, nel senso che stiamo aumentando sempre di più le risorse umane, quindi abbiamo problemi, è paradossale, gestiamo una massa enorme di finanziamenti, ma abbiamo problemi che dobbiamo risolvere assolutamente. Però detta tra me e lei, tanto non ci sente nessuno, ma avete sbagliato o no? Ma io dico che c'è un, vogliamo dire, ci siamo non intesi bene, però non c'è un vero e proprio errore da una parte e dall'altra, ma comunque rimediamo, non si preoccupi. Vediamo, se rimedierete ne daremo sicuramente notizia. Grazie al direttore generale degli affari comunitari internazionali della Regione Campania, Dario Gargiulo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, potevamo mettere anche la sigla di Happy Days. Alcuni definiscono il direttore della Regione Campania come Fonzi, che non riusciva a dire che aveva sbagliato. Però attenzione, qui il problema non è solo ammettere che uno ha sbagliato, è capire perché si arriva a queste condizioni. Comunque, vedremo se domani vi sarà un riavvicinamento, un ripensamento del generale Scoppa. Maurizio Scoppa, che tornerà a lavorare per la Regione Campania. Adesso invece sul fronte non dei ripensamenti ma delle intenzioni ci occupiamo per la prima volta forse di Alitalia, perché sarebbe pronto il piano di Etihad per rilanciare l'Italia. La strategia del gruppo di Abu Dhabi prevederebbe di trasformare Alitalia in una compagnia 5 stelle con più rotte intercontinentali, nuovi aerei, la capacità di sfruttare la forza dei prodotti made in Italy, che non ne parliamo quasi mai, ma chiaramente le compagnie di bandiera sono anche un grandissimo veicolo, non solo del made in Italy alimentare, ma anche con più rotte intercontinentali, dicevo, nuovi aerei e un servizio di alta qualità. Al centro del progetto ci sarebbero anche un forte sviluppo degli aeroporti di Linate e Fiumicino, un ritorno all'utile già a partire dal 2017, ben 2700 esuberi. Ecco perché abbiamo messo I Have a Dream, nel senso che sembra libero dei sogni, fatta così, adesso al di là degli esuberi che ci mancherebbe, ma sono esuberi che comunque prevedeva anche la gestione italiana di Alitalia, non così tanti ma erano previsti. Dico, vista così, uno si chiede ma cosa aspettino i vertici di Alitalia, le banche creditrici a firmare un accordo, con Etihad. Giro la domanda a Gianni Dragoni, per la prima volta in collegamento sui temi di Alitalia. Buonasera Gianni. Forse non per l'ultima volta. Ecco, bene, no, non veniamo sfiga, sennò ti do il gufo. No, subito. Il tema, la saga non si sta concludendo, quindi andrà avanti. No, però guarda, la domanda non era retorica o provocatoria. Cioè, quando tu si legge che vogliono veramente rilanciare l'Italia, ora i grandi dubbi sull'opzione Air France, lo ricordo a tutti, erano dubbi legati al fatto che i francesi non volessero fare i furbetti, e cioè in realtà trasformare l'Italia in una compagnia regionale che doveva portare tutto il traffico su Charles de Gaulle, su Parigi, sostanzialmente come unico hub, e a noi restavano le briciole. Ora, e lì i dubbi li abbiamo avuti anche noi molto forti, cioè l'Italia completamente ridotta a un corollario dell'alleanza con Air France. Qui però sembrerebbe di vedere, insomma, un vero o un reale convincimento che Alitalia diventa un partner importante di Etihad. E allora qual è la resistenza? Allora, intanto questo piano, queste parti del piano che sono uscite oggi potrebbero anche non essere tutto il piano, quindi essere solo la parte bella, ma sto cercando di dare una risposta completa. La parte bella o più accattivante e non quella, diciamo, dei costi, degli oneri, tra i quali ci sono anche, appunto, una richiesta alle banche di rinunciare a una parte consistente dei loro crediti, 400 milioni che poi con i crediti fatti nell'ultimo periodo salgono anche a 560 milioni, quindi le banche chiaramente stanno cercando di tenere, di vedere se il sacrificio possono farlo non solo loro, ma estenderlo anche agli altri azionisti, come per esempio dicendo loro i soldi mettiamoli un po' tutti, perché il debito lo riduciamo non cancellandolo ma mettendo altri soldi, quindi ecco perché, ecco spiegato uno, forse anche perché è una delle esitazioni. Poi noto comunque che questo piano, prevedendo un utile al 2017, intanto, quindi ci sono ancora 3 anni di sofferenze e di perdite, 23 milioni di passeggeri nei prossimi anni. L'Alitalia aveva l'anno scorso, per esempio, ha fatto un po' meno di 24 milioni di passeggeri. Questo cosa vuol dire? Che quindi il piano prevede che l'Alitalia, prima di poter crescere, si riduca, perché si ridurranno anche i voli a medio raggio e una parte dei nazionali. Quindi in realtà la crescita comincerà più tardi, sarà più lenta, non sarà immediata. Allora, quindi dici ci sono resistenze di altro genere. Secondo te, ultima domanda, anche se non è la prima volta che te la faccio, quando si riuscirà a chiudere questa partita, o in un modo o nell'altro? Perché insomma, io mi ricordo, no, prima era metà aprile, poi fine aprile, poi inizio maggio. Ora mi sembra che gli elementi ci siano tutti, a meno che tu non mi dica che Etihad secondo te ha altri margini di modificare il piano. A me così non pare, però sei tu l'esperto. Voglio dire che siccome oggi, se trovano l'accordo preciso con le banche, manderanno la risposta ai Etihad, ma c'erano stamattina ancora dei punti un po' da risolvere, è il giorno in cui doveva arrivare una certa risposta, quindi noto la coincidenza tra le indiscrezioni che escono e il momento in cui si prendono decisioni, forse per fare anche qualche pressione su chi è ancora incerto. E quindi dico, siamo abituati a vedere anche un uso un po' tattico di come le informazioni escono, solo questo. Poi c'è tutta la partita degli esuberi, che a questo punto tutti la conoscono, ma formalmente mi sembra ci sia l'idea di tirarla fuori solo dopo le elezioni europee, perché ormai stiamo andando a questo. Allora, gli esuberi, hai detto bene, forse non sono più alti di quelli già del piano dell'Alitalia, con una differenza che per il momento sono esuberi personali in cassa integrazione a rotazione e contratti di solidarietà, quindi sono esuberi, girano, no, a rotazione. Nel piano di Etihad, secondo quello che sappiamo, sarebbero esuberi definitivi, quindi quei 2600 iniziali che vengono battezzati come esuberi, e sono persone che verrebbero escluse definitivamente dalla compagnia, non rientrerebbero. Chiaro. Va bene, staremo a vedere anche su questo, mentre ci avviamo all'ultimo tema della puntata. Il telefono è caduto, e mi riferisco a dove eravamo partiti, anche perché ci sono anche reazioni del Ministero su questo, il Ministero dell'Economia, il dato sul PIL, ma in realtà dopo aver analizzato il dato a livello economico, dopo il traffico cercheremo di capire anche che implicazioni politiche questo possa avere. Non sfugge a nessuno che se il PIL cresce meno delle attese, il tuo deficit non va come previsto, di riffa o di raffa, dobbiamo dirla sta parolina, ci sarà bisogno di una manovra correttiva. mentre arrivano le solite agenzie in questi casi, Milano sotto shock, il calo del 3,60% ha bruciato in termini di capitalizzazione 17,6 miliardi oggi, però hanno ragione gli ascoltatori che ci dicono sì, ma quando la borsa cresce non dite mai quanto si è creato, per cui attenzione anche questa notizia un po' ad effetto, fermo restando che la capitalizzazione oggi è scesa di 17,6 miliardi, ripeto, tonfi pesantissimi, Intermedia 7,8,5, UBI Banca meno 7,70, Mediolanum meno 7, Pop Milano meno 6,80, Monte dei Paschi meno 6,40, Intesa meno 6,20, Banca Popolare meno 5,80, Unicredito meno 5,60. È chiaro che non è solo lo spread che è schizzato a 180, perché abbiamo visto lo spread essere ben più alto, è l'effetto a catena che si è scatenato sui mercati. Dicevo, ci sono anche altre note che stanno uscendo. A questo punto la crescita acquisita per il 2014 con questo dato è del meno 0,2, il che vuol dire che se per i prossimi trimestri restassimo invariati chiuderemmo con un meno 0,2. Chiaro che così non sarà, ma significa che quello che abbiamo portato a casa fino adesso è un meno 0,2 contro attese di un più 0,2. Allora, sul calo pesa anche l'andamento negativo dell'industria. Pensate che il PIL ha toccato il livello più basso dal primo trimestre del 2000 in valori assoluti, cioè vale 340.591 miliardi di euro. Era un PIL così basso, non si vedeva nel primo trimestre dal 2000. Vuol dire che abbiamo perso, questo si può dire, ho bruciato 14 anni di crescita economica. Poi c'è qualcuno che ancora mi chiede perché questo non è un bollettino di, perché dico che è un bollettino da guerra, perché è un bollettino da guerra. Miliardi, sicuramente ho detto, forse mi facciano notare 340 mila miliardi, magari 340 miliardi vale il nostro PIL, 591 milioni di euro. E le varie reazioni, il tesoro dice il taglio dell'IRPEF, quindi 80 euro, rilancerà i consumi, la ripresa, e il calo dell'economia è comune a altri paesi dell'area europea, vi saranno delle novità nel semestre italiano di presidenza. Il sottosegretario Del Rio dice siamo preoccupati ma impegnati a dare una svolta. Dino Pesaro del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, eccomi. Allora Dino, dunque qualcuno mi scrive ma guardi che nessuno sta urlando per il calo della borsa, non c'è gente disperata. No, ma neanche noi siamo disperati, abbiamo solo detto che la reazione sta molto molto forte sui mercati. Però al di là dell'analisi economica che faceva prima il professor De Aglio, ci sono elementi congiunturali molto male, è andata anche l'Olanda che ha fatto meno 1,4%, pesa per esempio la componente energetica più bassa del solito per un inverno mite, altri mi scrivono ma la Germania non c'ha avuto un inverno mite, sì, ma probabilmente pesa meno il consumo energetico nel calcolo complessivo del PIL. Però al di là di tutto questo, Dino, è inutile girarci attorno, la delusione è tanta, le stime erano di una crescita sempre di decimali ma dello 0,1 e dopo aver fatto più 0,1 nell'ultimo trimestre 2013, qua siamo a meno 0,1 con una non crescita già acquisita dello 0,2%. Questo secondo te potrebbe cambiare radicalmente l'approccio del governo? Il dato è abbastanza sconfortante, inutile negarlo. Potrebbe cambiarlo, non credo nell'immediato, è possibile che lo cambi tra l'estate e l'autunno, perché nella malaugurata ipotesi che non ci sia una sterzata, ma deve essere vigorosa per riportare il PIL addirittura verso quantomeno, che dire, lo 0,5-0,6 che è stato previsto dall'OCSE e dalla Commissione Europea. Il governo addirittura si è spinto fino allo 0,8 e non più di due giorni fa il ministro Padoan ha detto che c'erano fondate aspettative di fare addirittura qualcosa in più. Se si punta all'1% e l'anno comincia con meno 0,1, insomma le premesse sono pessime. Dunque, qual è l'impatto possibile? L'impatto possibile è che naturalmente, come ben sappiamo tutti ormai, se si cresce di meno vuol dire meno entrate fiscali, vuol dire meno produzione e dunque vuol dire più deficit. Il problema qual è? Che noi abbiamo già a bocce ferme un deficit nominale, non parlo del pareggio mitico pareggio di bilancio, al 2,6%. E allora se si fa più deficit, qui il problema è che in autunno, speriamo di no, ma come fece già il governo Letta lo scorso anno, bisogna mettere mano a una manovra correttiva, seppur limitata, perché se no andremo oltre il 3%, finiremo di nuovo in procedura di infrazione e così via. Dunque, quindi il rischio esiste. Le prospettive di crescita che il governo aveva indicato nel varare il decreto sul bonus IRPEF, ma anche lo sblocco dei crediti commerciali della PA, la riforma del mercato del lavoro, rischia di franare se non ci sarà un'inversione già nel prossimo trimestre, perché poi i conti si fanno alla fine dell'estate e dunque con la nota di variazione del documento di economia e finanza di metà settembre bisognerà dar conto della frenata dell'economia e a quel punto è molto probabile che bisognerà rivedere anche tutto l'impianto, vale a dire la prossima legge di stabilità già prevede a oggi, quindi senza scontare la caduta del PIL, prevede impegni per 10 miliardi per stabilizzare il bonus IRPEF e almeno altri 10 miliardi se si vuole. Oggi il vice ministro Morando l'ha ribadito, intervenire sull'IRAP, far fronte alle spese inderogabili, insomma, cioè, si prospetta un autunno un po' impegnativo, quindi come dire, l'auspicio è che questo dato, ancorché subordinato all'andamento della congiuntura europea, questo è vero, ma per quanto ci riguarda il problema è in gran parte tutto interno e bisognerà invertire la tendenza, sennò ci saranno guai. Purtroppo tu confermi i miei timori, avrei preferito che tu li smentissi, e cioè già il governo stima uno 0,8, forse l'1% di crescita, mentre gli Istat, Fondo Monetario, stimavano 0,5, 0,6. Questo però prima di avere una partenza d'anno diciamo infrenata. Qua, e noi tutti ce l'auguriamo, secondo trimestre il dato è superiore alle attese e se arriva al terzo trimestre, e quindi quello relativo fino a settembre, con un sostanzialmente un PIL che è in netto recupero, allora forse riesce a stare nello 0,7-0,8, o se no tu dici bisogna rivedere anche tutte le coperture per questa per le varie manovre. C'è una terza possibilità in realtà, che si accetti di avere un deficit più alto di quanto annunciato, di quanto promesso l'Europa. Deficit sul PIL. Questo è possibile, certo, questo è possibile. Noi abbiamo il 2,6, il limite invalicabile è il 3, ci si può spingere fino al 3, ma non oltre, quindi c'è un piccolo margine. Noto che sarebbe però il terzo anno consecutivo che noi chiudiamo l'esercizio al 3%, cioè esattamente al limite massimo, quindi senza aver diminuito di un millimetro questo valore. Anche questo sì, come tu sai, io non sono un appassionato del tetto al 3%, la Francia continua a sforarlo, cioè io penso che a me interessa più il tetto della disoccupazione da abbassare, certo, e dei consumi interni. Sul 3.1, 2.9 è roba da ragionieri tedeschi, su, senza offesa per i ragionieri. Certo, no, sono totalmente d'accordo con te, il problema però riguarda le regole. Purtroppo se noi facciamo il 3,1 finiamo in procedura per deficit eccessivo e già la Commissione non più di un mese fa ci ha inserito nella lista dei paesi che hanno squilibri macroeconomici eccessivi. Allora si può andare a contrattare certamente, però l'ATU che il governo voleva mettere in campo per ottenere più flessibilità era proprio il denominatore, cioè faremo più crescita, questo è l'assunto di tutta la strategia di politica economica del governo. Se invece di far più crescita, per la parte che ci compete ovviamente, perché poi sul ciclo internazionale possiamo ben poco, il problema comunque si pone, poi certamente si potrà ragionare se lo scostamento dello 0,1 non sarà la fine del mondo, però il problema è che non c'è più margine per fare politiche attive sugli investimenti, cioè ci siamo bruciati anche quest'anno tutti i margini di maggior deficit a causa della contrazione del PIL e del terzo anno consecutivo, quindi come dire il quadro non è proprio esaltante, però insomma, speriamo in meglio nei prossimi trimestri. No, ecco, vedo il ministro Poletti che dice dobbiamo fare degli approfondimenti di merito per capire esattamente quali sono le situazioni che hanno prodotto questo esito, però anche chi come l'economista Mario De Aglio prima evocava il caldo, l'inverno caldo, meno consumi energetici, ma anche riforme da fare urgentemente che pesano sulle imprese, le imprese dell'edilizia, ma non solo, le riforme burocratiche, sì, io allora, vanno fatte il prima possibile, andavano fatte 15 anni fa, tutti le hanno promesse, nessuno ha mai sburocratizzato nulla, però temo che non possono avere un impatto immediato, a meno che non si vari un decreto da qui a giugno che possa avere un effetto anche, anche a partire da settembre, Dino. È esattamente questo, cioè del tempo prima che le riforme, quando si riescono ad attuare, non solo ad approvare da parte del Parlamento, dispieghino i loro effetti, quindi ci vuole un po' di tempo. Però è altresì vero che le aspettative erano che comunque il 2014 si aprisse con un rimbalzo positivo, quantomeno replicando l'ultimo trimestre dello scorso anno. Sto parlando dello 0,1%, non stiamo parlando di cifre pazzesche. Sì, e questo è questo anche che lascia perplessi, appunto, nessuno aveva immaginato una crescita fortissima a inizio anno, però proprio la non crescita e anzi il calo. Vabbè, Dino Pesole, grazie, grazie al collega del Sole 24 Ore. Devo adesso vedremo, domani non ho offeso i ragionieri, è un modo di dire, ci mancherebbe, non voglio, non offendo nessuna categoria professionale. Comunque, un augurio di buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.